argomento, lo sapete, sto rischiando. Ci vado, la vedo, vedei. Smaggia la nebbia nel spunto per altri sei. Una peste già guidone come i fratelli Bolivar, mentre sotto un lampione se la spassa per i cari. Che botte con la notte. Mi ricordo di sei maciale rotte. Un sinistro da un quetale e dal destro vi dirò. Sono un auto e c'ho la quale però messa a capo. Che baci, che baci.